voglio vivere di ricordi come vecchie Roxanne che fanno gara chi beve di più. Non voglio scrivere di troie rimorchiate in un bar che tanto non me le ricordo più. Ah, voglio ridere di gusto quando sono da punk, voglio sentirti mentre gridi bu. Ma non mi servono le parole per star bene con te quando ti spogli e non mi parli più. Così semplice che canto sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Wow. Io marcio in mezzo a una strada con due scappati di casa credendo di fare filosofia. Tu che sei bella impacciata che ci riscalza per casa, che piange ancora per una bugia. E vado fuori per te, che ti emozioni per una poesia. Ma non mi servono le parole per descriverti, sei perfetta come questa melodia. Così semplice che canto sha la la la la la la la la. Wow. Calmo con le persone che sono complicate o cambio. In poche ore non servo le parole per dirmi a che cosa pensi, per darmi il buon umore o per farmi cadere a pezzi. Mi bastano tre note, una vita fatta di gesti così semplici che canto sha la la la la la la la la la. Wow. Sha la la la la la la la la la la. Wow. Sha la la la la la la.